Ecco. Zubrek, gare. Ehi, buonasera. Buonasera, Antonello, sì. Ehi, a Barracuda, direzione Flattamona. Infatti, ascolto bene qua, Ma stai viaggiando? Negativo, sono a casa. Postazione fissa. Ah, mi sto prendendo la mia bambina a bagnarsi i piedini. Già te le bagni anche tu. Dai, una volta ogni tanto ci si può andare. E tu? Non sei uscito niente oggi, tutto il giorno a casa stai. Adesso vediamo dopo. Vediamo, sono qua a casa, sono. A riposo, dai, alla fine. Ah, no, comunque, per il momento il traffico non ce n'è, già è un orario abbastanza presto, dai, tutti stanno a mangiare. Dunque, dai, ne approfitti. Speriamo di trovare un pezzo di spiaggia non troppo affollato, perché sinceramente stare in mezzo alla gente dà un po' fastidio. Non è bello, non è bello. Da dove sei adesso, la Buttibuti? No, qua sono dopo San Giovanni, ho superato San Giovanni. Cappa, ti sento bene già. Ma mi è sembrato di sentire sottofondo anche qualcun altro. Avanti. Ciao, signor Grotte. E dove ti trovi? Sei in compagnia di Pombolo. Dove ti trovi, Grotte? No, non ti copio. Pombolo, copiato l'hai a Grotte. La cappa, chi è Antonio Grotte? Pombolo. Ma fatti sento basso, Antone. Dove sei? Villaggio Bianco, Flattamona. K, ti tiro proprio fuori con le pinte, non so come arrivo lì. Io sto facendo 4 watt con un baracchinetto, dai. Guarda, mi sto benissimo bene, però. Attenzione, Antonio Pombolo. Anzi. Vabbè, ciao a tutti. Ciao, Giuseppe. Chi c'è, Grotte? Ma c'è Grotte e c'è anche Barracuda. Antonio, attento. Attenzione Antonio, Grotte, si copi qua la stazione di Leoncino, cambio. Molto chiaro. Ehi, dove ti trovi, a Villaggio Grigio? Villaggio Bianco. Ah, Villaggio Bianco, dove, che zona? Flattamona, no? Come ci sto arrivando? Quanto? Più forte di Pombolo. Più forte, molto più forte. Strano. Ora. Guarda adesso, 1, 2, 3. Ancora più forte di Pombolo, almeno il doppio. Ehi, cappa. Tu arrivi basso e... Quanto? Arrivi un bel basso. La radio 3, segnale quasi 3, capito? Ora, se mi copi, ora. Ora. Torello è meglio di te, arriva molto meglio. Dimmi, ora. Come, Antonio, non ti ho copiato, Antonio, avanti. Dove sei? Entrata è Flattamona, amico. Attenzione, Antonello. Tutto un'altra cosa. C'è Antonello. È Antonello Barracuda. Non lo so, sto cercando una piccola spiaggia non troppo affollata per portare la mia bambina pronto, sì. La chiamata anche poco fa. Sicuramente non mi sentivi, dimmi tutto. Se vuoi andare a un bar, una spiaggia che non ci sia molto gente, vai, però non lo so, se sei disposto, io ti posso dare un consiglio, andare al quinto, di fronte allo stabilimento, guarda, lì si sta bene, diciamo, cioè, ci sarà un po' di gente, però stai bene, ci sono gli ombrelloni e tutto quanto, e si sta veramente bene. Proviamo dalla faccenda, vediamo un po' di valutare, sì, proviamo anche lì. Alla fine tra il viaggio grigio e bianco e il quinto pezzo dovrebbe essere, diciamo, non tanto distanti uno dall'altro. Correggimi se sbaglio, hola. No, non sbagli, no, non sbagli, Antonè. Comunque, io tutte le volte che vado al mare scendo sempre a quinto perché mi trovo sempre bene, capito? C'è lo stabilimento, ci sono gli ombrelloni, non hai bisogno di fare strada, proteggi la macchina lì, 50 metri c'è lo stabilimento, ci sono gli ombrelloni, lo dryer e vedi poi se ti conviene, almeno sei più tranquillo, c'è l'acqua pulita e tutto quanto, cambio. Va bene, grazie del consiglio, vediamo un po' di valutare, dai. E tu dove ti troveggi? Io sono a casa, a Torre. Ma hai dato il segnale com'è che hai entrato a Plaza Moralis? Ti sento un po' male, ti sento un po' male, Antonè, forse, boh, non lo so, dipende che zona ombra sì, tu capito, per sentirti bene. Devo dire, no, cambiamo, non vi piace, no. Sono i conflitti più che altro. ti richiedo cosa mi hai detto. I corvi in che senso? Persone con le mani lunghe? I corvi, vabbè, gli uccidi a quest'ora. No, non riesco a capirti cosa intendi per corvo. Dunque? Ah, ho capito. Ah, zona con problemi di orecchio sinistro. Si impara sempre, ma sinceramente questa è la prima volta che sono i curvi. Sinceramente non riesco a capire il doppio senso di quello che vuoi dire, ecco. Dunque dovrebbe essere, caramba, che sorpresa! E qual è il problema? Io sono tranquillo, c'è di assicurazione, di copertone, di apparato, ecco. Perché è bianco? Come mai questo colore? Ti piace il bianco? Ma sai, forse il sole dà problemi al cervelletto. Ma no! Attento, bombolo, se mi copri.